dottor della mia sorte. Queste scuse, signorina, a un dottor della mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posturar, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posturar, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posturar, sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posturar, un dottor della mia sorte, queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posturar, un po' meglio in posturar, un po' meglio, un po' meglio in posturar. I confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo, vi scotaste e via, e via. E ci vola altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vola altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Vo' saper con esso imbroglio. Perché manca la quel foglio? Sono inutili le smorfie. Fermalo, non mi toccate, fermalo, non mi toccate. Figlia mia, non lo sperate, ch'io mi lasci in figlio, o chiamar, no, o no. Figlia mia, non lo sperate, ch'io mi lasci in figlio, o chiamar. Un dottor della mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posturar, un po' meglio in posturar, un po' meglio, un po' meglio in posturar. Via carina, confessate, son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate. So ben io quel che ho da far, so ben io quel che ho da far. Signorino, un'altra volta quando partirà andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando partirà andrà fuori. Le consiglio se è vittoria e il suo modo non saprà. Signorino, un'altra volta quando partirà andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando partirà andrà fuori. Le consiglio se è vittoria e il suo modo non saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Nemmellare, nemmellare, nemmellare dopo tra. Cospetto per quella porta, nemmellare dopo tra. Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, cospetto per quella porta, nemmellare dopo tra. Rosina innocentina, Rosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in sua camera sedata, in sua camera sedata, in sua camera sedata, figlio voglio solo bro. Onda por della mia sorte, non si lascia in figlio odiar, no, no. Onda por della mia sorte, non si lascia in figlio odiar. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata,